Paolo Scibilia, da Sentimenti nel Vento, Finestre sul Borgo, dedicato a mio nonno. Un giorno di molto tempo fa c'era un fienile sotto la finestra che il nonno lasciò. C'era un forcone e una zappa, c'erano macchinine e giocattoli sparsi. C'era il ricordo di fratelli lontani. Un ultimo respiro, profondo odor di fiori. S'accese la speranza. Aprirono la finestra e pioveva. Piogge sul viso, lieve sorriso. Un treno è partito. Riflessi di sole, piogge sul cuore. Sedie sparse, preghiere. Riflessi di sole, piogge sul viso, piogge sul cuore. Un attimo. È buio. Le finestre sul borgo ormai sono chiuse, ma c'è luce. Dove si riflette c'è più armonia, anche stavolta poesia, nostalgia, piogge sul viso, piogge sul cuore, un attimo, amore. Le finestre sul borgo s'aprono stanche da tempo, metronomi al vento. Il fienile non c'è più, il forcone e la zappa sono arrugginiti. Li osservo contemplando e barcollante, brividi infiniti, stanche sere, ricordi. Felici e insensati ricordi, ora esuli.